want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. One, two, one, two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di DJ Telespero. Pronti per un altro appuntamento con il Soundcheck, questo è il numero 84 qui su Radio 24. Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Telesforo e buon pomeriggio alla mia amica, collega, cantante, formidabile insegnante di canto Ada Montellanico. Benvenuta al Soundcheck di Radio 24. Bene, ben trovato a te Gegè e veramente un saluto a tutti i radioascoltatori. Ada, è bellissimo vederti, è un po' di tempo che non ci incontriamo, in giro è molto difficile quando facciamo questi nostri giri, i nostri percorsi musicali, poi incontrarsi magari succede nei locali, però sono felicissimo che tu mi abbia raggiunto qui nel nostro studio per parlare al nostro soundcheck di musica e anche di alcune iniziative che ti interessano, interessano tutti i musicisti in questo momento, ne parliamo fra pochissimo qui al soundcheck. Ada, tu mi porti anche un disco non pubblicato recentemente. Quanto tempo ha questa produzione? Ma un anno e mezzo circa, è uscito diciamo aprile del 2012. Sì. Aprile del 2012, e la cosa bella di questo album per una vocalist che da sempre è vicina al mondo del jazz e che ha cantato standards e tutto quello che hai fatto nella tua carriera è proprio il fatto di aver scelto un repertorio che invece trae ispirazione da composizioni pescate qua là nel repertorio di vari songwriter anche appartenenti al mondo più rock che jazz. Come mai questa scelta? Ma diciamo che il concept di questo album è proprio mettere un focus sulle donne compositrici, quindi diciamo l'argomento principe, io ho voluto in questa tappa della mia carriera andare un po' a evidenziare questo ruolo, questa espressione delle donne che è sempre minoritaria rispetto invece all'essere interpreti, e quindi le donne compositrici o comunque donne che compongono, che dirigono orchestre, che arrangiano, sono molto poche. Sicuramente adesso questa espressione si sta sviluppando sempre di più, però culturalmente non vogliamo fare questi discorsi qui perché sarebbero veramente lunghi e anche un po' noiosi, insomma il discorso femminile è sempre stato un po' relegato ai margini di certe espressioni, no? Ma tu proprio per esperienza personale, perché dici questo? Perché anche tu hai trovato un po' di chiusura nei confronti delle donne nell'ambiente del jazz, oggi ci sono protagoniste di fama internazionale anche in Italia, ma hai avuto problemi ad emergere in questo mondo di maschiacci? Ma no, diciamo, io sono stata fortunata, però quello che ho capito è che noi donne dobbiamo dimostrare sempre molto di più di quello che invece accade, di quello che accade a voi, insomma noi dobbiamo dimostrare di essere veramente brave a fare quello che facciamo e quindi diciamo ce la dobbiamo guadagnare un po' di più la pagnotta, come si dice a Roma, no? Ma io credo che comunque sia un discorso che coinvolga tutti, no? Per fare questo lavoro di base dovrebbe esserci un buon talento di base e poi la preparazione e l'esperienza faranno il resto, comunque bisogna essere bravi in ogni caso. Assolutamente d'accordo, sì. Allora io direi di passare subito alla musica e io ti voglio omaggiare proprio facendo scopa sul discorso che tu mi hai fatto. Intanto ti faccio ascoltare l'ultima produzione della bravissima Diane Reeves, che approda la Concord Records con un album intitolato Beautiful Life. Noi lo abbiamo già assaggiato qui su Radio 24 proprio un mesetto fa, ma l'album viene pubblicato adesso e quindi lo troverai probabilmente in versione MP3 anche su iTunes. Ottima produzione, meravigliosi musicisti, e qui Diane Reeves proprio ripropone dal repertorio di Stevie Nicks, non so se tu ricordi questa songwriter americana che ormai un po' dimenticata, ma che scrisse questa canzone bellissima per i Fleetwood Mac intitolata Dreams, qui riproposta da Diane Reeves al soundcheck di Radio 24. Well, who am I to keep you down? da Ian Reeves per fare un regalo alla mia amica Ada Montellanico, nostra ospite qui al soundcheck di Radio 24. Il brano era Dreams, che troverete nella nuovissima pubblicazione intitolata Beautiful Life. Breve pausa e poi di nuovo soundcheck qui a Radio 24. Take me right away. Abbiamo visto più volte dal vivo, l'ho anche conosciuto durante l'edizione dell'anno passato di Orvieto Jazz Festival per Umbria Jazz. La voce di Kurt Elling ha vinto più volte il Grammy Award qui dall'album The Gate di un paio di anni fa, con la sua versione di Golden Lady dal repertorio di Stevie Wonder. In questo appuntamento del soundcheck di Radio 24 con nostra ospite Ada Montellanico, per parlare naturalmente di musica, per parlare della sua musica, della sua attività come insegnante di canto al Conservatorio di Avellino. Ne parleremo fra pochissimo, perché adesso invece vorrei che tu mi raccontassi su cosa sei impegnata, perché c'è una cosa che ti sta molto a cuore, ovvero l'attività del musicista nel nostro paese. Sì, esatto, diciamo che stiamo affrontando un'operazione titanica, cioè quella di riunire la comunità jazzistica per riaffrontare delle tematiche importanti che non sono solamente significative per noi, ma anche per altri linguaggi, no? Che non sono solamente il jazz. E quindi diciamo ci siamo riuniti un po', diciamo, insomma, superando anche questo individualismo che caratterizza un po' il mondo artistico. Noi artisti siamo tutti un po' animali, un po' solitari, no? Per cui anche ritrovarci, discutere di queste cose e anche ridare, insomma, vigore a questa musica è stato veramente importante. È un lavoro molto lungo, è un lavoro che dovremo fare tutti insieme, però vedo che c'è veramente tantissima voglia di lavorare, non solo di suonare bene, ma anche di parlare di musica, di rendere questa nostra attività un'attività viva e quindi possibile, anche perché sappiamo che è complicatissimo vivere di musica in Italia, quindi deve accadere, insomma, è importante che si... Eh sì, perché nel nostro paese esistono dei musicisti, anche delle figure professionali che rappresentano l'eccellenza del nostro paese a livello internazionale, ma ancora la figura del musicista, a parte i musicisti che appartengono agli enti lirici e quindi provengono dal conservatorio, hanno fatto quel tipo di percorso, la figura non è supportata anche a livello istituzionale, no? E quindi è quello che state cercando di fare, che stai cercando di fare. No, verissimo, c'è un discorso delle istituzioni e c'è un discorso anche dei media, quindi io ringrazio Radio 24, ringrazio te, perché questo programma è importante per divulgare altra musica, quella che normalmente non si ascolta mai, quindi complimenti veramente per questa attività. Bene, complimenti anche a te per il lavoro che stai svolgendo, è un impegno, come dicevi tu, titanico, proprio perché i musicisti sono dei lupi solitari e quindi il fatto di vederli tutti insieme riuniti in una sala da congressi e dibattere e parlare delle problematiche legate al lavoro mi sembra una cosa sana e importante, cose che si fanno ormai da tanti anni in altri paesi. In Francia i musicisti sono organizzatissimi, per non parlare poi delle syndication che supportano il lavoro dei musicisti americani. L'ho detto più volte, quando i musicisti italiani o europei devono andare a lavorare negli Stati Uniti sono dolori, perché praticamente andiamo a togliere il lavoro a un musicista americano, quindi la syndication richiede proprio in denaro una cifra che possa supportare il musicista che noi teniamo a casa. Ecco, questo è il concept. Invece da noi le porte sono aperte a tutti, quindi arrivano musicisti da tutto il mondo e noi musicisti italiani un po' soffriamo anche questa cosa, no? Verissimo, molto vero, no, assolutamente d'accordo. Infatti, diciamo, forse dobbiamo equiparare la nostra situazione a quella europea e quella americana, insomma, in Francia, cioè addirittura l'investimento del francese sulla cultura addirittura viene triplicato, cioè la cultura produce risorse, quindi investire sulla cultura è importante, perché ritorna indietro ovviamente un livello culturale di tutto il paese, si accresce questo livello culturale, ma si accresce anche denaro, quindi è veramente fonte di risorse. andiamo al suono di Donna, il suono di Ada Montellanico, da questo album di un anno fa, con la partecipazione del bravissimo Giovanni Falzone, musicista, trombettista italiano dotato di grandissima energia, che qui supporta anche con gli arrangiamenti questa tua idea sonora. Ripercorri i tratti compositivi di alcune songwriter della storia della musica contemporanea, e quindi il brano che ascoltiamo è proprio un brano tratto dal repertorio di Carole King, se non erro, che si intitola So Far Away. La voce è quella di Ada Montellanico, nostra ospite al Soundcheck su Radio 24. So far away, doesn't anybody stay in one place anymore. It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know that you're just time away. Long ago I reached for you and... Di nuovo nel mondo dei suoni del Soundcheck di Radio 24, nostra ospite, la vocalist, insegnante di canto Ada Montellanico, lo abbiamo detto, impegnatissima, sta cercando in qualche modo di riunire i musicisti italiani. In questo momento partiamo dal jazz, ma credo che il discorso si possa ampliare un po' a tutti i musicisti, per riuscire a regalare un'identità da un punto di vista professionale, e quindi il supporto anche delle istituzioni al lavoro artistico e alla cultura che i musicisti portano in giro nel mondo. Questo è il concept, giusto? Assolutamente d'accordissimo, sì. Ma allora parliamo invece della tua attività come didatta al Conservatorio di Avellino. Da quanto tempo insegni e come mai hai accettato, tu che fai tanti concerti e sei impegnatissima, hai accettato di andare ad Avellino tutte le settimane a insegnare e a dare consigli ai più giovani? Ma diciamo che insomma sono 2 anni che insegno nei conservatori, e quest'anno ho avuto questo grande regalo di avere una cattedra, quindi non è cosa da poco, io sono molto contenta. Avellino tra l'altro è una cittadina molto attiva, devo dire, fa moltissime cose, ci sono ben 2 festival di jazz, quindi insomma devo dire sorprendente. E diciamo che il discorso della didattica si lega a quello che abbiamo detto anche prima, no? Perché ovviamente i dipartimenti di jazz nascono praticamente nel 2000, anche se c'era già qualcosa prima nei conservatori, quindi è importante che il conservatorio, che ovviamente è la scuola addetta proprio all'insegnamento di musica, abbia anche altri linguaggi, no? Ma all'interno del jazz ovviamente c'è la popular music, quindi vengono per esempio molte cantanti che vogliono fare musica pop. Io ovviamente in maniera molto cerco di portare avanti il mio discorso, ma sai meglio di me che il jazz è una filosofia di vita, quindi non è solamente imparare un certo tipo di linguaggio, ma è un modo di approcciare la musica. Quindi questo è molto importante, che nei conservatori ci sia questa apertura ad altri linguaggi, e è una esperienza straordinaria, perché l'insegnamento è una cosa seria. Io ci sono arrivata tardi proprio perché ritengo che bisogna avere anche una certa maturità, tra virgolette, bisogna aver vissuto, aver fatto delle cose per poterle insegnare. Quindi il rapporto con i ragazzi è un dare e avere, tu racconti e dai, regali la tua esperienza, e che cosa ricevi dai ragazzi? Ma innanzitutto tantissimo entusiasmo, ma poi devo dire, e lo dico, lo confesso, lo so che lo sto confessando a tutti praticamente in Italia, è anche un modo per rimettermi a studiare delle cose, perché ovviamente per insegnare devi avere ben chiaro certi aspetti della musica, e quindi per me è una continua ricerca, è qualcosa che in realtà ti porta a fare una ricerca continua anche su te stessa, sul tuo linguaggio, sulla tua musica. Però i ragazzi sono straordinari, perché arrivano veramente con una voglia di crescere, e quindi poi, sempre per riagganciarci al discorso precedente, bisogna dargli anche delle opportunità, no? Che cosa ci facciamo con tutti questi ragazzi che escono dai conservatori, sia classici che appunto appartenenti al jazz? Cioè dobbiamo trovargli un'opportunità di fare dei lavi, di lavorare, di fare i musicisti, per cui questa è anche la lotta dell'associazione, no? Conosci Cassandra Wilson personalmente? No, purtroppo no, è una delle mie preferite. E anche da Ian Reeves, devo dire, hai avuto una grande intuizione oggi. Eh beh, ma la puntata te l'ho dedicata e quindi Cassandra Wilson qui al Soundcheck di Radio 24 con una composizione scritta dal signor Dylan, che non è Bob, ma suo figlio Jacob, che scrisse questo brano intitolato Closer to You qui nella versione di Cassandra Wilson. How soft a whisper can get when you're walking through a crowded space. I hear every word that you said. I remember that every day. I get a little bit closer to you. È stato un vero piacere incontrarti, Ada Montellanico, al Soundcheck di Radio 24. Abbiamo parlato di tante cose, io ti auguro veramente successi, tieni duro con l'Associazione dei Musicisti di Jazz e poi voglio vedere proprio i musicisti italiani riuniti per trovare l'entusiasmo giusto per continuare a fare benissimo questo lavoro e esportare la nostra cultura e il nostro talento all'estero. Beh, ci sarai anche tu quando ci sarà la prima di questa associazione, no? Dammi subito il pezzo di carta che ti metto la firma immediatamente. Ti farò sapere, tu darai l'anteprima in questa trasmissione di quello che sarà il nostro manifesto, no? La nostra prima uscita nazionale. Allora vi saluto con un altro brano tratto da Suono di Donna di Ada Montellanico. Il brano si intitola Promised Land, questa volta tratto dal repertorio di una bravissima songwriter abbastanza roccheggiante che è Eni Di Franco. E quindi Ada, un abbraccio forte, auguri e complimenti. Grazie, grazie a te Gegè, grazie a tutti, veramente. Buon pomeriggio a tutti e buona musica da Gegè Telesforo. You're taking up lots of space. Your shit is everywhere. Your breath is all up in my face. Your hands are swarming in the air. You're the first one out of the car, and then you're the loudest one in the bar. Soundcheck. Il suono della musica.